Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Faccio una fototessera per quando dovrò fare il visto all'arrivo. Sopra Kuala Lumpur, l'ultimo scalo prima del Vietnam, vedo i contorni quasi familiari dello splendido aeroporto. L'aria condizionata è sparata al massimo e mi rendo conto che non annuso aria aperta ormai da 20 ore. Mi chiamo Antonella Zanoni, abito a Venezia Mestre, sono sposata, ho due bimbi di 3 e 1 anno. In questo preciso momento non sto lavorando, sono accompagnatore turistico. Ritornati a Milano in diretta, sono le 16:08 minuti di lunedì 14 maggio 2012, in diretta dal Castello di Cristallo del Sole 24 Ore, o meno di Radio 24 in primis. Dall'altra parte Fabio Cantadori, che è rimasto qua e si è perso un gran pezzo al Salone del Libro, insomma un gran pezzo della radio al Salone del Libro. Non parlo solo di noi, Rudy, parlo di tutti quelli che erano presenti. C'è ancora qualcuno là, giusto? Ancora? Sì, ancora oggi c'è qualcuno. È finito oggi, c'era solo più Taddia, solo perché sono rimasto in Piemonte, altrimenti non lo direi mai. Solo più è proprio piemontese, anzi quasi Torino Barracuneo, nemmeno Romentino. Grazie ancora a tutti quelli che sono venuti, grazie a quelli che continuano a scaricarsi il libro, che lo diciamo, questa roba della classifica la diciamo, perché... Allora, le classifiche non ce ne frega mai niente a nessuno, giusto? Soprattutto se non sei in classifica. Cioè le guardi e dici, sì, vabbè, dai, sono i conteggi di gente che si mette lì. Poi, anzi... Chissà come sono fatte le classifiche, verranno presi dei dati a caso, ma no, non interessa fare le cose bene. Appena ci siamo accorti che l'ebook di Voi Siete Qui, composto dalle 100 storie degli ascoltatori, è entrato nella classifica degli scaricamenti gratuiti, perché è gratuito, nella fattispecie di Apple Store, giusto? Cioè è quello l'unico che ha una classifica riscontrabile. Appena ci siamo accorti, sia io sia Bonini, c'è partita questa febbre che ogni 5 minuti andavamo a controllare, con l'imbarazzo di tutti i presenti intorno a noi, a che punto eravamo. Il punto più alto siamo arrivati sesti nella classifica. Quinti! Ma adesso siamo quinti? Adesso siamo sesti, ok. Meno entusiasmo però, noi comunque non ce ne frega, giusto? C'è una classifica che chissà come verrà fatta, no? Ok, però adesso siamo sesti negli scaricamenti gratuiti dei libri elettronici di Apple Store. Se volete ancora scaricarlo, se non l'avete ancora fatto, vi ricordo, è un libro composto da le 100 storie, alcune tra le storie arrivate, nella fattispecie 100, qui al programma di Voi Siete Qui. Se avete voglia di rileggervele, magari ce n'è qualcuna che vi è piaciuta di più, altre di me. È il bello del fatto che è gratuito, cioè potete scaricarvelo e buttarlo dopo 5 secondi oppure leggerselo quello che volete. Andate sul sito di Radio 24 e si apre immediatamente una finestra con scritto Voi Siete Qui ebook e ve lo scaricate. 349-238-6666 invece Voi Siete Qui @radio24.it per intervenire in diretta e per raccontare qualcosa di più della storia di Antonella di oggi, perché la storia di Antonella di oggi potrebbe essere rubricata sotto la categoria ho fatto una vaccata, cioè proprio banalmente l'ho fatta, speravo di passare a liscia e invece no, si è presentata in un posto dove serviva un visto, senza il visto l'hanno rispedita a casa. Questa diciamo è la storia in soldoni. Poi chiaramente c'è un grande pathos nel racconto di Antonella, soprattutto condito dal fatto che lei a un certo punto, quando si trova in un posto molto lontano da casa, che non vi dico qual è, ce lo racconterà lei a breve, si è sentita come una clandestina. E quella è una sensazione che non capita spesso di provare, soprattutto se non si è dei clandestini. È di questo che si parla oggi. 349-238-6666, di quando in qualche modo qualcuno o qualcosa vi ha fatto sentire dei clandestini. Antonella scrive sul profilo Facebook: ho vissuto 10 anni negli Stati Uniti, ma ero arrivata da clandestina, nel senso che i primi anni non avevo il permesso di soggiorno. Non è certo una bella sensazione, anche perché sei in un paese straniero, non parli bene la lingua e ti sembra che tutti sappiano che sei illegale. È un po' quella sensazione, ho capito cosa intende, che vai in giro e dici, ah, quello mi sta guardando, non è che adesso quello chiama la polizia, ma che non vale solo per la sensazione di clandestinità vera e propria. Maria Donata: io mi sono sentita clandestina, e a volte ancora oggi mi succede, quando gli amici scoprivano che scrivevo e improvvisamente sembrava strano che potessi godermi una giornata di nuotate al mare o una birra come tutti. Non l'ho capita bene. Che amici hai? Cioè che se scrivi non puoi... Sei una persona strana? Tant'è, 349-238-6666, qualsiasi sia stata l'occasione in cui vi siete sentiti clandestini. Questa invece è la storia di Antonella, che clandestina lo è stata di fatto sul serio. Check-in alle 5 del mattino. Cominciamo bene. Fuori è ancora buio e nonostante sia il 28 di luglio, un brivido umido mi mette a disagio. La verità è che sono preoccupata. Sono rientrata da un'esperienza di volontariato di 6 settimane in Brasile e dovrei spaccare il mondo, e invece sono giù di morale. Per fortuna l'atmosfera dell'aeroporto tira fuori da me la mia parte di viaggiatrice un po' più snob in mezzo a tanti turisti. Ma non riesco a togliermi dalla testa tutto il casino del visto per il Vietnam. Eh sì, perché la viaggiatrice esperta e consumata se ne va in Vietnam senza visto. L'alternativa, d'altra parte, era quella di non partire, perdere il biglietto e, avendo quasi 1.000 euro da spendere, aspettare almeno 3 settimane prima di poterci riprovare. Io non voglio aspettare, e poi il presidente della Onlus mi ha assicurato che ora lo fanno all'arrivo il visto, perché, dice, si stanno aprendo al turismo. Con questa speranza mi avvicino al banco dell'accettazione, dove un ragazzino incravattato mi accoglie serio e, tentennando, mi lascia passare. Ok, primo ostacolo superato. Mi stupisco della lucida follia con cui affronto questa incognita mentre lascio andare lo sguardo al minestrone di esseri umani nelle candide sale delle partenze internazionali. L'accompagnatore turistico può fare sia incoming che outgoing. Quando fa outgoing vuol dire che va in giro per il mondo ad accompagnare gruppi o anche solo coppie o anche solo un individuo a spasso. Passando davanti al duty free, penso compiaciuta che all'arrivo della prima tappa, imbarcandomi per un volo intercontinentale, avrò diritto all'acquisto di 2 stecchi di sigarette. Scalo a Francoforte. Altre code, penso, e se non mi imbarcano? E se mi rispediscono a casa? E invece anche qui tutto bene. Nessuno soffre per l'assenza del visto. Gironzolo tra le vetrine cercando di indovinare la provenienza di quel distinto uomo d'affari o di quella donnina tonda carica di sacchetti. Mi annoio da morire, mi sembra di perdere tempo, invece io voglio partire. Questa è la sensazione più appagante di quando sei in un viaggio. L'insofferenza alla banalità. La consapevolezza di essere un po' diversi, di avere qualcosa di distinto in quanto viaggiatori. Ci si sente totalmente estranei alla normalità dei turisti chiassosi, dei bambini sovraeccitati che anzi un po' mi infastidisce. Come quei 2 sposini tedeschi rotondi e ubriachi con i loro abiti da cerimonia che sembrano scappati dalla chiesa. Faccio una fototessera per quando dovrò fare il visto, all'arrivo, come mi hanno detto. Compro la scorta di sigarette. Mi rendo conto di attendere le 12 ore di volo e i film in lingua originale quasi con impazienza. Non vedo l'ora di scrollarmi di dosso questa sensazione di accadimento imminente. Imbarco. La divisa delle hostess della compagnia di bandiera malese consiste nel tipico costume femminile dai batik sgargianti. Loro sono servizievoli, sorridenti. Provo a distrarmi, ma l'ansia da visto mi impedisce di dormire. E quindi, uno dopo l'altro, mi sorbisco tutti i film che passano sui minischermi per 12 ore. Sopra Kuala Lumpur, dove faccio l'ultimo scalo prima del Vietnam, vedo i contorni quasi familiari dello splendido aeroporto. L'aria condizionata è sparata al massimo e mi rendo conto che non hanno uso aria aperta da 20 ore. Atterriamo. A parte qualche temerario turista francese e inglese, lo scenario umano è composto da vietnamiti che, appena mi vedono, mi guardano con una sorta di incuriosito rispetto. Ancora una volta un impercettibile sorriso tradisce la mia vanità di viaggiatore in solitaria. Controlli, tutto in ordine, fantastico, ci siamo quasi. Il volo per Hanoi mi pare quasi breve e mi faccio coraggio. Siamo quasi arrivati, in fila al controllo passaporti del piccolo shuttle aeroporto della capitale vietnamita, ripeto questa frase come ipnotizzata da un mantra indù. Siamo quasi arrivati, siamo quasi arrivati. Osservo il poliziotto premeditando un atteggiamento da adottare. Ok, ci siamo. Ti senti sempre sospesa, come se stessi trasgredendo la legge in qualche modo, perché anche se hai tutti i documenti in regola, vai là e con questo stato d'animo un po' d'ansia. E poi quando sei proprio sprovvista di vista ti senti una grande idiota, diciamo la verità. But here there is no visa. Where is the visa? Mi chiede l'omino basso e magro in uno stentato inglese. Dov'è il visto? Gli spiego che non ce l'ho, ma che lo vorrei fare adesso. Lui non si prende neanche il disturbo di rispondermi che non funziona così e con un piccolo gesto fa chiamare due colleghi che mi scortano nell'ufficio della polizia. Ancora convinto che ci sia una soluzione e con tutta la cortesia e l'umiltà di cui sono capace, racconto a tutti gli uomini di quell'ufficio che sono nel loro paese per lavorare in un progetto umanitario e che per ragioni di tempo non sono riuscita ad avere il visto d'ingresso. E ancora che il capo progetto mi ha assicurato che l'avrei potuto richiedere all'arrivo qui in aeroporto. Sulle prime mi ascoltano e mi rispondono che l'unica maniera sarebbe quella di avere una lettera di invito del governo vietnamita. Poi mi ignorano completamente. Chi fuma, chi ridacchia, chi si fa i fatti suoi, chi va a chiamare altri colleghi. Verdetto finale: espulsione e rimpatrio. Mi sequestrano il passaporto e il biglietto aereo, neanche una telefonata. Rassegnata chiedo di poter almeno recuperare il bagaglio. Fanno le smorfie ma accettano. Scortata sino all'imbarco per Kuala Lumpur, mi consegnano nelle mani di una hostess che custodirà i miei documenti per affidarle alle autorità malesi. Mi fanno sedere in business class perché i clandestini non si devono mescolare agli altri passeggeri. Obbedisco senza discutere. All'atterraggio, a prelevarmi, c'è la polizia. Lo scoramento è tale da inibire qualsiasi tipo di reazione. Un omone pasciuto e olivastro prende in consegna i miei documenti e me e mi accompagna dal capo, canticchiando «O sole mio». Non è stata una bella sensazione. Non è stata una bella sensazione anche perché ho visto nei loro occhi, non dico il disprezzo, ma un po' così, ma che si crede di essere questa? Innanzitutto una donna che viaggia da sola e non ha nemmeno i documenti in regola e me la viene a menare con la faccenda del volontariato, che poi era vera. Al comando il campionario umano è dei più lugubri ed è qui che comincia ad immaginare come debbano sentirsi profughi e clandestini. Siamo tutti dei numeri, ma ognuno ha la sua storia da raccontare. Al mio turno dico semplicemente la verità e suggerisco che non mi imbarchino per l'Europa, ma che mi permettano di entrare in Malesia, dove non serve il visto. Giusto il tempo di andare all'ambasciata vietnamita e procurarmene uno. Una piccola genialata che funziona. Perché, come diceva Rolf Potts, non esiste opportunità migliore per affrontare le paure latenti e mettere alla prova i lati nascosti della nostra personalità che trovarsi di fronte al peggior imprevisto. Sono esausta, ancora non so come andrà a finire. È sera, il cielo buio e la temperatura tropicale sono quelle di un altro emisfero. Non so nulla di questo paese e non so da che parte cominciare. Mi sarei fermata a Kuala Lumpur per 12 giorni, cavandomela benissimo, ma ancora non lo sapevo. E allora mi prendo le ginocchia tra le braccia e mi metto a piangere, in silenzio, finalmente. He climbed into the belly of the great white bear. It's very sticky and it smells a little fishy, but no one will look for him there. He took a moment to pick his thoughts and make them clear. To bring a disaster on their youthful dreams of escape. Ci sono diversi di modi per sentirsi clandestini o per essere clandestini. 349-238-6666. Entrato clandestino in Bangladesh tramite villaggi sconosciuti con una pseudo ambulanza durante un monsone. E poi ancora Giorgio, ho visto un sacco di partite dell'Inter a San Siro da clandestino scavalcando dal lato ippodromo. Silvia, mi sono sentita clandestina quando mi sono trasferita da Torino alla provincia in Friuli e non riuscivo a integrarmi perché anche il dialetto fa barriera, scrive Silvia. E poi ancora, questa è quella più simile evidentemente a quella di Antonella, 3 anni a New York, uscivo 90 giorni, ogni 90 giorni, cioè ogni 3 mesi uscivo per rinnovare il visto. Alla fine sono stato bloccato all'aeroporto JFK dall'immigrazione e sono stato tenuto in cella 1 giorno e rimpatriato. Mirko da Latina. Deve essere stata la sensazione simile a quella che ha provato Antonella. Pronto Antonella? Ciao. Ciao, come stai? Bene, bene, un po' emozionata, devo ammetterlo. Stai tranquilla, dove sei? Rilassati, Antonella, rilassati. Sono sul terrazzino di casa, così posso parlare a voce a volume normale, visto che ho uno dei due bimbi che fa la nanna. Benissimo, la solita scriteriata che lascia figli a letto da soli per parlare alla radio. Senti, Antonella, tu non sei stata tenuta in carcere, giusto? Non sei stata tenuta in una cella? No. Però hai aspettato quanto all'immigrazione in Vietnam? Parecchie ore, perché poi hanno dovuto trovare il volo per Kuala Lumpur per rimandarmi indietro. A quel punto, scusami la banalità, il volo su cui ti piazzano per rimpatriarti è a spese dello Stato vietnamita, è a spese tue? No, infatti è per questo che, anche per questo che ho dovuto aspettare, perché io avevo già il volo di ritorno e il volo di ritorno prevedeva comunque uno scalo a Kuala Lumpur prima di tornare in Europa. Quindi è stato a spese mie, hanno usato il mio biglietto, sì. Ok, senti, invece i 12 giorni che poi ti sei passata a Kuala Lumpur in attesa di avere un visto, giusto? L'hai chiesto all'ambasciata vietnamita a Kuala Lumpur. Sì, cosa hai fatto 12 giorni a Kuala Lumpur, che detto così non saprei nemmeno bene dov'è e com'è? È una città bellissima, immagino, tu mi dirai, è una città straordinaria. È una città interessante, caotica, e con tutti i grattacieli del caso per fare lo skyline, come da copione. Allora, all'inizio, ciliegina sulla torta, avevo probabilmente sforato il plafond della carta di credito, per cui ero anche completamente senza soldi e ho dovuto temporeggiare con i tizi della pensioncina di quarto ordine che mi ero trovata per pagarli, quindi è stato un po' anche per quello che mi sono fermata 12 giorni. Però in quei 12 giorni poi hai fatto la turista o no? Bravo, quando la situazione si è sbloccata ne ho approfittato. Sì. Quindi questa, scusami Antonella, è la legge del contrappasso nei confronti tuoi, che all'aeroporto di partenza guardavi i turisti con questo fare un po' come degli sfigati a confronto tuo, che eri una viaggiatrice, e hai fatto la turista per 12 giorni. Poi senti, il fatto che tu hai avuto due figli, mi auguro sia accaduto dopo tutto questo. Sono piccolini, hanno 3 anni e 1 anno, il viaggio risale a parecchi anni fa. Cosa andavi a fare per l'ONLUS, ONG, quello che era? Allora, si trattava di dare una mano in questa casa di accoglienza per bambini di strada. I bambini di strada vietnamiti non hanno nulla a che fare con i bambini di strada brasiliani. Esatto, e nel senso che non sono abbandonati, loro lasciano le campagne con la benedizione dei genitori e si riversano nelle città per lavorare, guadagnare qualche soldo che poi portano ai genitori. Ho capito. E cosa succede? Non vanno a scuola, sono in balia di se stessi, quindi si cerca un po' di dare assistenza in questo senso. Ho capito. Senti Antonella, scusami perché devo lasciarti, però l'ultima domanda è: fumi ancora così tanto che ti becchi 2 stecche di sigarette al duty free shop? Allora, 2 stecche di sigarette da fumatrice della domenica quale sono? Mi durano una vita. Certo. Tra l'altro, la stecca di sigarette era da quando mio padre fumava 20 anni fa e mia nonna gli regalava per Natale. Il regalo di mia nonna a mio padre, suo cognato, cioè mia nonna materna, a mio padre regalava una stecca di sigarette. Non succede più, forse solo al duty free. Antonella, ti ringrazio tantissimo. Grazie a te. In bocca al lupo per tutto, torna da tuo figlio che sta dormendo. Grazie. Caro Matteo, mia moglie riesce a farmi sentire un clandestino tutte le volte che rientro a casa dal lavoro. In bocca al lupo. Voi siete qui. Ci ha mandato una bella foto Antonella, in cui ha un cappello bianco sotto il sole in un posto pieno di piante, e credo che sia un ristorante perché c'è una frotta di bicchieri davanti a lei. Ha su degli occhiali, si vede poco di Antonella. Comunque, così, a giudicare dal fatto che è serena e non ha passeggini intorno, probabilmente risale e potrebbe essere addirittura là, in quei 12 giorni trascorsi a Kuala Lumpur. 349-238-6666, a proposito di sentirsi clandestini, Zerkut Mustafa mi scrive: un anno da clandestina in Germania, adesso dopo 17 anni, quando mi ricordo mi viene da piangere, adesso sono qui in Italia da 16, da regolare. Viva l'Italia, scrive, non so quale sia il nome, quale sia il cognome, però Zerkut Mustafa sarà il nome, decisamente, sì. non sa fare, saranno noi, grazie Bonini. In Etiopia bloccati in aeroporto dalla sicurezza, il missionario scavalca le protezioni con in mano degli orologi tipo perline colorate, ci fanno passare. Il missionario che scavalca le protezioni, immagino col delle Birkenstock, perché i missionari hanno sempre su, no, dei sandali tipo Birkenstock. Poi uno, Paolo, mi scrive: viva Torino, viva il Piemonte contro lo strapotere dei Bauscia. Ma dov'è lo strapotere dei Bauscia? Questa è una roba un po' torinese, che i torinesi si sentono in competizione con Milano, mentre i milanesi non si sentono in competizione con Torino. Però quando vai a Milano ti dico: certo, quando vai a Torino è certo, perché voi milanesi. Però è un po' one way questa cosa, unidirezionale. Allora, per tutti quelli che mi scrivono che si sono scaricati l'ebook e non sanno come leggerlo, quale software usare, ecco, non sono proprio un esperto, però Tiziano mi dice che c'è un software gratuito da scaricare che è Adobe o Adobe Digital Edition. Se vi scaricate quello potete aprire l'ebook serenamente. E visto che ne riparliamo ancora, a che punto siamo della classifica? No, vabbè, no, non guardiamo adesso. Guardiamo dopo. Narcissus è l'editore che ringraziamo ancora, e Ultima Books è invece la piattaforma da cui vi scaricate, ma voi aprite il sito di Radio 24 e ve lo trovate direttamente lì, l'ebook. Visto che si parla di clandestinità, ci è venuto in mente un libro che abbiamo già letto, da cui abbiamo già tratto delle cose, che è un libro scritto da Fabrizio Gatti che si intitola Bilal. Fabrizio Gatti ve lo ricorderete perché è quell'uomo che cambia in continuazione faccia e identità, scrive per una rivista di politica e attualità in Italia, sono riuscito a non fare il nome dell'Espresso, e che cambia identità per fare dei reportage, per fare delle inchieste. Forse quella che l'ha reso più famoso era esattamente questa, in cui si buttò in mare vicino a Lampedusa e venne recuperato e raccontò di essere un clandestino. Non ricordo più di dove, se iraniano o turco, qualcosa del genere, però comunque lui è piccoletto, è scuro di capelli. E quello che voglio leggervi è proprio il momento esatto in cui lui è in mare e non sa ancora bene cosa farà, ma sa che deve chiedere aiuto. Il piano prevede che Bilal resti in acqua almeno un'ora, giusto il tempo che il freddo e la salsedine raggrinziscano e sbianchino a dovere la pelle. Un occhio allenato capisce subito se un corpo è rimasto in ammollo ore o pochi minuti. Le onde entrano dolcemente nello stretto imbuto di Cala Madonna. Il faro là davanti illumina un gruppo di ragazzi seduti sulla sabbia. Una piccola barca di legno è ancorata a un centinaio di metri da loro. Bilal si rovescia pancia in sotto e nuota, spingendosi soltanto con le gambe. Il naso è appena sopra l'acqua per respirare, le mani aggrappate al borsone. Raggiunge senza il minimo rumore la poppa della barca. Questo è un nascondiglio perfetto. Si guarda le mani. L'acqua salata ha già fatto effetto. Ha completamente tolto lo strato di colla che doveva confondere le impronte digitali. Pazienza. Almeno i brividi però si sono spenti. Il corpo si è riscaldato. Bilal sente di poter rimanere in acqua l'intera notte. A volte si sporge dalla poppa della barca per controllare che ai ragazzi non venga in mente di nuotare fino alla barca. Continua a muovere le gambe, per riscaldare il sangue, ma soprattutto per lo spettacolo delle perle di plancton che scintillano intorno ai suoi piedi. Ancora un'occhiata ai ragazzi. Non c'è più nessuno. E adesso chi sentirà le grida di aiuto? Bilal si riposa abbandonandosi alla deriva. Una raffica più determinata delle altre lo avverte che il vento da terra sta rinforzando. Ormai è una brezza tesa e per contrastarla servono bracciate decise. Su Punta Pagliareddu brillano le finestre di una grande villa. Ora c'è movimento. Un traffico di ragazzi, auto, scooter. Forse il concerto è finito. Bilal grida «Help!», allungando le «e» all'infinito. Si sorprende di avere ancora tutto quel fiato. Help. Niente da fare, vorrei scappare, dove il miraggio diventa realtà. L'aria è leggera, bella d'amore, dove ogni uomo ha la sua libertà. Dopo il tempo del silenzio, la stagione del rumore arriverà. A parte parte qualcuno mi scrive: la stessa cosa unidirezionale che capita ai torinesi nei confronti dei milanesi succede anche ai bolognesi nei confronti dei romagnoli, ma credo che succeda in vari casi. La cosa strana però è proprio la competizione che va in un'unica direzione. Parliamo invece di sentirsi clandestini, perché Giulia scrive: avevo appena smesso di arrampicare, canottiera e braghette squalcite ancora sporche di magnesite. Era estate ed estate divento davvero scura. Assetata mi fermo in un paesino, faccio due passi, mi rivolgo a una sciurotta, una signora, per chiedere dove trovare una fontana, e questa scappa terrorizzata gridando che non ha nulla da darmi. Giulia. 349-238-6666 è l'ultimo messaggio di oggi. Gianluca: ciao Matteo, io ho introdotto clandestinamente in Svizzera con un passaggio in macchina un ragazzo che parlava solo afghano. Ho messo l'annuncio su un sito di car sharing e qualcuno mi ha risposto. Occhio agli annunci di car sharing. Grazie a te, grazie a Tiziano Bonini, a Fabio Cantadori e a Margherita Ina. La storia di oggi era quella di Antonella e parlava di sentirsi clandestini. Quella di domani è di Marzio e parla di come ci vedono gli altri. Caro Marzio, pur non frequentandoci da moltissimi anni, mi sembra che abbiamo ancora un buon feeling. Mi pare quasi inevitabile a volte parlare del passato. So che tu leggi le mie parole come un tuffo o forse come una fuga nel passato. Per me, invece, è solo pura memoria.